Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. È sbarcato anche in Italia finalmente il mobile ticket, il biglietto dell'autobus che si paga con un semplice SMS. E Firenze a sperimentare per la prima volta questa possibilità, insomma, qui chi è abituato a spostarsi un po' ovunque, anche in trasferta con i mezzi pubblici, avrà pensato almeno un migliaio di volte, condendola in qualche caso con un po' di imprecazioni, magari quando l'autobus ti parte davanti agli occhi e tu non sai dove fare il biglietto. Insomma, per parlarci di questa innovazione così apparentemente semplice, però così utile, ci pensa Chiara Albicocco, che ha incontrato Filippo Bonaccorsi, presidente dell'ATAF, l'azienda di trasporti pubblici di Firenze. Sentiamo. Si fa nella maniera più semplice del mondo, e questa è la novità e la cosa in più rispetto ad altri servizi di biglietto col cellulare che ci sono in Italia, in alcune realtà, e che avevamo già noi sperimentato un anno fa. La novità deriva dal fatto che adesso per i gestori TIM, Vodafone e Wind, prestissimo anche per H3G e ancora dopo per tutti gli altri gestori minori, come per esempio Coop, come esempio Beh, insomma, quasi tutti, e quant'altro, basta semplicemente, senza registrazione, senza carta di credito, senza alcuna operazione preliminare, uno è alla fermata, vede arrivare l'autobus, può non salire biletto, liberamente, 488-0105, un SMS, scrive sul testo dell'SMS ATAF, nel giro di 8 secondi gli arriva il biglietto valido per 90 minuti al prezzo che lo comprerebbe dal tabaccaio e con il PIN di riconoscimento che molti ascoltatori già conoscono. È lo stesso sistema del biglietto che compriamo per il treno e che ci facciamo arrivare sul cellulare. Ecco, allora l'ha sintetizzato perfettamente, quindi io adesso vorrei puntualizzare: senza carta di credito, già è una cosa interessante che interessa a tutti, anche gli anziani, anche i ragazzini, insomma tutti. L'altra cosa interessante è che io pago quanto? Paga 1,20, esattamente il prezzo del biglietto che compreresti dal tabaccaio, dall'edicola o qualsiasi rivendita. Quindi non c'è nessuna maggiorazione. Non un centesimo in più, non un centesimo in meno, a differenza invece di prima, di quando si acquistava il biglietto sull'autobus, perché a Firenze c'è anche questa possibilità. Esattamente, quindi devo dire che è un bel risparmio. Ovviamente in più c'è il prezzo dell'SMS, ma è un prezzo che va al gestore dell'SMS, ovviamente non all'azienda del trasporto, quindi ognuno ha il suo piano tariffario, ha il suo SMS e quant'altro, e quindi se la gestisce come vuole. Ma il prezzo del biglietto è quello del tabaccaio. Ricordiamo invece che a Firenze c'è la possibilità anche di comprare il biglietto dall'autista, anche se ne hanno una dotazione limitata per ragioni di sicurezza, e che costava 2 euro. Quindi, quindi con una leggera maggiorazione, ho capito. Quando arriva il controllore, io che cosa faccio? Mostro il display del mio telefonino. Mostra il display, l'SMS che è arrivato, che ha il PIN, il controllore, che è anche un'altra novità che abbiamo istituito insieme, ha un sistema di riconoscimento, ha quindi tutti i codici dei PIN validi, e immediatamente fa il matching con il PIN che gli viene mostrato sul display e dice il biglietto è valido. Sì, insomma, vede l'orario, certo, l'orario di salita e l'orario in cui scade. Dunque, siete gli unici a fare questo in Italia? Sembra così siamo banale. Siamo i primi a farlo in Italia. Ecco. Siamo i primi a farlo in Italia, siamo stati tra i primi a farlo in Italia il sistema, quello con la carta di credito, il 21 marzo dell'anno scorso, l'abbiamo fatto per un anno, è andato benone, abbiamo fatto più di circa 6.000 abbonati. Diciamo che funzionava più o meno nella stessa maniera, però insomma dietro bisognava avere la carta di credito per pagare, come dire, non c'era la convenzione con i gestori di telefonia. Soprattutto bisognava registrarsi, perché bisognava collegare il proprio numero di cellulare alla carta di credito, quindi bisognava andare sul sito. Tutto questo è ancora possibile, sia chiaro, non è che abbiamo sostituito una modalità con l'altra, sono valide tutte e due. Chi preferisce addebitare la somma sulla carta di credito per ragioni assolutamente proprio, continua a farlo, deve andare sul sito di ATAF e in 4 minuti e mezzo si registra. Chi invece tranquillamente preferisce farsi addebitare sul proprio traffico telefonico, che sia una scheda ricaricabile o che sia una bolletta a casa, ecco che col 488-0105 il costo del biglietto viene scaricato e addebitato sul traffico telefonico. In maniera diretta. Ecco, abbiamo detto che siete gli unici e i primi in Italia. Presidente, ma secondo lei, essendo appunto un metodo abbastanza semplice, come mai nessuno ci aveva pensato prima, o ci sono dei problemi tecnici da risolvere? Ma i problemi tecnici ci sono stati, perché altrimenti noi l'avremmo fatto già un anno fa. questo sistema. Sono stati numerosi. Noi ovviamente abbiamo collaborato con Ericsson, che ci ha dato la piattaforma informatica, e con i tre gestori. Con la collaborazione di tutti siamo riusciti a farlo. Perché abbiamo fatto via degli altri? Forse avevamo più voglia di farlo, e quindi, come dire, quando uno ha molta voglia di fare una cosa, di dare un servizio ai cittadini e agli utenti, ecco che i risultati arrivano prima. Avete già pensato a qualche altro sviluppo di questa? Certo, come no. Dal punto di vista della bigliettazione, noi con questo e con l'acquisto degli abbonamenti online praticamente abbiamo coperto tutte le possibilità di vendita, diciamo, che la tecnologia ci consente, ovviamente. Tra l'altro noi abbiamo anche una bigliettazione ormai che si fa nelle casse dei parcheggi pubblici, piuttosto che in alcuni grandi catene di supermercati. Quindi un'unica card magnetica. Esattamente. Mm-hmm. Più avanti, nel corso dei prossimi anni, sarà ovviamente una decisione che prenderanno gli enti pubblici, quindi comune, provincia, regione, ovviamente avremo, come a Londra, la tessera magnetica che sostituirà completamente l'abbonamento cartaceo, e che darà la possibilità, come a Londra ovviamente, di utilizzare quella per tutti i tipi di pagamento. Noi facciamo un ultimo passo verso la tecnologia, è un'applicazione che lanceremo il 30 di aprile, quindi alla fine di questo mese, che è ATAF 2.0, e che dà la possibilità, ovviamente riconoscendo il cellulare, la posizione di colui che fa la richiesta sull'app, di avere tutte le informazioni sul trasporto pubblico con tutti gli arrivi in tempo reale degli autobus. Insomma, che cosa volete di più? Beh, magari che un po' di altre città italiane seguano l'esempio di Firenze. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.